La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, eccoci ancora insieme, una buon fine settimana da Franco D'Assisi, La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema qui su Radio 24. È sempre più lanciata la volata natalizia con i film, questa settimana non tantissimi che arrivano nelle sale cinematografiche, ma tutti piuttosto importanti, a partire ovviamente dal ritorno di Peter Jackson, dello Hobbit, della saga del Signore degli Anelli, insomma da quello che dovrebbe essere sulla carta il titolo a chiappa incassi per queste festività natalizie. Ne parleremo diffusamente fra poco, ma è anche la settimana del ritorno di Ken Loach. Insomma, ci sono tanti temi e anche tante iniziative molto interessanti di cui parleremo nella terza parte del nostro programma, fra cui un Bergman come non l'avete mai visto. Allora, riepiloghiamo tutto come sempre nei nostri titoli di testa. Peter Jackson torna con Lo Hobbit, prequel della saga del Signore degli Anelli, e riscrive la storia delle riprese e degli effetti speciali. Un colossal di 3 ore che ci porta alle origini della storia di Bilbo Baggins e del ritrovamento dell'anello. Blockbuster annunciato. La redenzione passa attraverso il whisky. È quel che accade al protagonista de La parte degli angeli, la nuova commedia sociale di Ken Loach, premiata a Cannes col premio della giuria. In una Glasgow periferica, la storia di un giovane padre che cerca il riscatto sniffando dell'ottimo scotch. Cettola qualunque, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato finiscono in carcere. Perché? Prova a raccontarlo Antonio Albanese nel suo Tutto tutto niente niente, nei cinema italiani alla conquista del Natale, rispolverando le maschere che hanno fatto ridere più di una generazione. Tutto Bergman come non lo avete mai visto per colpa della censura. In home video gran parte della filmografia del grande maestro svedese, restaurata in alta definizione e in versione integrale. Ne parliamo coi curatori del progetto. Anche se tu volessi cambiare, loro non te lo permetterebbero. No! La condanno a 300 ore di lavori sociali. Stavi più sicuro in galera, brutto cazzone! Sei arrivato troppo tardi. Io devo fare le mie ore, per favore! Si è bambini una volta solamente, Robby. E avete sentito alcune suggestioni dal trailer di La parte degli angeli, il ritorno di Ken Loach, il film con cui vogliamo cominciare questa puntata della Rosa Purpurea fra le novità di questa settimana al cinema. Ken Loach, protagonista recentemente delle polemiche di cui abbiamo parlato anche qui con il Festival di Torino, il mancato premio, poi un mezzo chiarimento, insomma, che non è andato fino in fondo, però noi qui Ken Loach lo vogliamo analizzare questa volta in questa sede come regista, e come regista ancora una volta ci piace quello che ha fatto con questo The Angel Share, appunto la parte, sarebbe meglio dire la quota degli angeli. Capirete adesso fra poco nelle nostre clip di che cosa si tratta. Una commedia dolce amara, una commedia sociale la potremmo chiamare, ma ambientata in una Glasgow periferica. Già Glasgow è abbastanza periferica rispetto alla Gran Bretagna in toto, e qui siamo alla periferia di Glasgow. Insomma, i personaggi sono quelli di Ken Loach, soprattutto Robby, un ragazzo che cerca di liberarsi da una sorta di faida familiare che lo tiene in un certo senso prigioniero, e anche da un suo passato di ladro, di insomma malfattore. Lui a un certo punto viene condannato a 300 ore di lavori sociali, lavori socialmente utili, sta per diventare papà, però si rende conto che questa faida familiare che lo attanaglia gli impedirà sostanzialmente di portare avanti la sua paternità come vorrebbe. Sarebbe anche la paternità che forse lo potrebbe redimere definitivamente, ma questa redenzione non sembra così facile. Allora, attraverso i suoi lavori socialmente utili, avete sentito sul finire della clip, riesce a conoscere Rino, un uomo che mette insieme questi ragazzi e cerca di recuperarli in qualche maniera. Rino è un personaggio che cerca la redenzione anche attraverso qualcosa di molto piacevole per questi suoi giovani adepti, ovvero il whisky. Tutto socio, forse tutto comincia anche davvero in una visita a una distilleria. Per quanto tempo tenete il whisky nelle botti? 10, 20, 30 anni, non so, dipende. Qual è il whisky più caro di tutti? Il più caro? Beh, noi abbiamo ritrovato una botte, diciamo, un anno fa, e abbiamo venduto una bottiglia di quel whisky a 100.000 sterline. 100.000 una bottiglia? Io ci compravo 30.000 bottiglie della merda che bevo io. Ci facevo 30 anni di bevute. Tu sei scemo. Dunque, ogni anno più o meno il 2% del whisky in realtà va perduto. Semplicemente sparisce, evapora, svanisce nell'aria. Perduto per sempre. È chiamata la parte degli angeli. E allora avete sentito proprio la motivazione del titolo. Ambiscono a qualcosa di più della parte degli angeli, però, Robbie e i suoi amici, soprattutto dopo l'incontro con uno strano collezionista. Mai giudicare un libro dalla copertina, eh? Mi faresti un piccolo favore? Assaggia questo. Che ne dici? Questo è facile. Si può sapere dove hai imparato? Hai veramente un gran naso. Tieni, ecco il mio biglietto. Non si sa mai. Taddeus Maloney, collezionista di whisky. E allora il nostro Robbie entra nell'ambiente. Dopo questa visita in distilleria, dopo questa conoscenza, capisce di avere fiuto, letteralmente, di avere naso per il whisky, li riconosce, è una sorta di sommelier vero e proprio, e è diviso fra mettere a servizio queste sue doti, chissà, forse di un lavoro, di un futuro che lo possa portare lontano da quelle strade che ne hanno causato fin lì una sorta di rovina, e invece un'idea, forse malsana, ma parecchio vincente, che viene in testa ai suoi amici. Sai quel tipo del whisky? Stavo parlando con delle persone e ho appoggiato dei fogli sul tavolo. E questi erano nel mucchio. So dove sono la distilleria e la botte. È la Malt Mill. Sei diventata pazza, mo? Perché? È la nostra occasione per fare un po' di soldi. Per fare soldi? Se mi beccano a fare una cosa come questa, sono 5 anni sicuri. Siamo straccioni, chi sospetterebbe di noi? Senti, mo, l'ho giurato a Leoni, io ho chiuso con questa roba. Vedi di lasciar perdere anche tu, qualsiasi cosa fai, ti beccano, dai. E invece forse non è proprio così, ma noi ci fermiamo qui con il racconto di Angel Share, La parte degli angeli, titolo italiano del film di Ken Loach, un film veramente riuscito, azzeccato nella tradizione di quel Ken Loach, come dicevo, più sociale, meno politico in senso letterale forse. Pensate a un titolo come My Name is Joe, ecco, siamo un po' da quelle parti. E lo stesso Ken Loach a Cannes, dove è stato premiato col premio della giuria, ha raccontato di come la commedia, la cifra della commedia, sia più un risultato che un'intenzione. Our attitude was that you don't direct it as a comedy in the sense that you cut for the laugh or you overplay it or you put in music to trigger the laugh. Il nostro approccio è stato quello di chi non ha girato una commedia, di chi vuole far ridere a tutti i costi. Abbiamo semplicemente raccontato la verità sui personaggi, sulla storia. E in questa storia ci sono delle cose che fanno ridere. Ma questo accade sempre quando si racconta una storia. Siamo fatti così. Anche nei momenti di profonda crisi c'è sempre qualcosa che ci fa ridacchiare. Non viviamo in un mondo monoemozionale. Con gli stessi personaggi sarebbe stato possibile raccontare una storia tragica. È la vita. Noi registi dobbiamo semplicemente raccontare una storia. E il criterio con cui lo facciamo non deve essere farà ridere, farà piangere, ma è la verità. Questo è stato il nostro approccio. Ed eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea. Andiamo avanti con le novità in sala. Abbiamo parlato di Ken Loach, del suo La parte degli angeli. Un altro ritorno in sala con un personaggio che è un vero e proprio beniamino della comicità surreale, un personaggio che ha avuto anche un percorso artistico sicuramente di grande trasformazione, ma che ha tenuto quella sua capacità di lavorare sul grottesco, che molto, molto spesso è un grottesco che arriva dalla vita di tutti i giorni, dalle pagine dei giornali. Stiamo parlando di Antonio Albanese, che con Giulio Manfredonia in regia torna nei personaggi, in questo caso al plurale, che lo hanno reso celebre, lo hanno fatto amare particolarmente, da Accetto la Qualunque a Frengo, ve lo ricorderete, insomma, un mondo per raccontare questo mondo, questa nostra Italia, soprattutto sferzare le sue notevoli disavventure politiche. Allora facciamoci raccontare il film dalla nostra Chiara Pizzimenti, che lo ha visto per noi. Amico elettore, cerchi un politico onesto e competente, cerchi un politico disinteressato e per bene. E a me lo viene a chiedere, va. Se ne incontro uno, giuro che te lo presento. Il messaggio è chiaro, il personaggio noto. Eccetto la Qualunque, politico campione di incassi a suon di Comunquemente 2 anni fa, interpretato da Antonio Albanese, che in questo tutto tutto niente niente, sempre diretto da Giulio Manfredonia, si divide in tre. Resta Cetto e il suo partito Dupilu. Mi manda Sua Eccellenza per ringraziarla. Sono un escort. No, grazie. Ringrazi Sua Eccellenza per il pensiero, ma io avevo proprio bisogno di un troione. Ci sono però anche altri due politici fra grottesco e realtà. Dal nord-est, il secessionatore Rodolfo Olfo Favaretto. L'Italia sta negando sotto un'ondata di ruberie, di criminalità, sotto una marea scura, scura di brutta gente. Però ho avuto l'idea che risolvi i problemi di tutto il nostro paese. Italiano diventa austriaco. E un ritorno dal passato. Franco Stoppato, sempre fumatissimo, candidato dalla devota madre Lunetta Savino, che lo vorrebbe beato da vivo. Gradisce l'appartamento, fumatori o non fumatori? Ma cosa? Mi scusco, c'è una convention della simpatia. Piuttosto rinuncio al bagno. Se c'è un camino abitabile o un posto a cenere arredato, quello è il mio appartamento. I tre partono, giustamente, dal carcere. Ne escono perché a Roma c'è bisogno di tre che votino sotto dettatura al posto dei parlamentari uccisi in una strage per far restare al potere un presidente del Consiglio muto e ingordo con la faccia di Paolo Villaggio. Il passaggio da detenuti a deputati avviene in un lampo. Altrettanto velocemente però la politica, rappresentata dal sottosegretario Fabrizio Bentivoglio, burattinaio dell'intero teatrino, si accorgerà di avere fra le mani tre schegge incontrollabili. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piaci. Tutti e tre sono interpretati e scritti bene da Albanese, che ancora una volta mette a nudo derive e vizi italici attraverso la maschera deformante del grottesco, la politica corrotta, ma anche l'omofobia e il razzismo. Il tutto in un'ambientazione da declino e caduta dell'impero romano, con aggiunte di kitsch di ispirazione religiosa. Se ne esce un po' frastornati, forse per la troppa vicinanza alla realtà, forse anche perché, fra tante battute, alla fine la satira resta superficiale e si limita a essere una sfilata di maschere. Diviso il pubblico alle prime proiezioni. C'è molto da ridere, è uno specchio della società di oggi. Cose risapute, già fatto altri film, è un po' ripetitivo, diciamo. Lui è molto bravo, Albanese, però non è che noi aspettavamo qualcosa forse di più, è una presa in giro della politica. Mi è sembrato meglio il primo, onestamente. Ma questo è un pochino meno incisivo, più comico, ma non incisivo. Troppo sopra le righe, per me Albanese è esagerato. E allora tutto tutto, niente niente, racconto della nostra Chiara Pizzimenti, qualche sì, qualche no all'uscita dal film che segna il ritorno di Antonio Albanese sulla grande schermo. Antonio Albanese incontrato, avvicinato dal nostro Boris Sollazzo per raccontare anche un po' la coincidenza di tante situazioni raccontate nel film con la nostra attualità politica. Guarda, quello che è successo in questi due giorni è tutto a scopo promozionale per il film, è stato organizzato e finirà tutto, perché è stato deciso dalla produzione della Rai Cinema di poter dare, come dire, un colpo promozionale a questo film, ma nient'altro, non credere, perché cosa vuoi, non può essere vero, cioè non può nella realtà, il cinema è anche finzione, ma nella realtà non può accadere tutto quello che stiamo in queste ore ascoltando, no, è tutto deciso, è stato tutto deciso dall'ufficio stampa, lui si è prestato e grazie per questa grossa promozione al film. Per questo tutto tutto niente niente, io ho scelto di fare tre personaggi per creare tre ritmi diversi, per tre alternative, raccontare il paese in maniera un po' diversa. La mia intenzione era quella di fare un film comico, un film popolare, perché è una parola che io reputo nobilissima, e abbiamo seguito la nostra strada. Siamo partiti anche con la mia idea di voler anche proprio raccontare altri temi, e allora la religione, allora la deriva razzista, e cercare, come sempre faccio io, cercare di rendere ridicoli questi tentativi. Per esempio il problema razzista, se vogliamo, è stato un po' accattonato in quest'ultimo periodo, e invece no, invece è un problema che sento proprio dietro l'angolo, è molto, che a me personalmente spaventa tantissimo. E allora abbiamo cercato, come dire, per prevenire, cioè abbiamo cercato di, e può essere molto efficace, di rendere ridicoli tutti questi personaggi, quelli che cercano, come dire, di, senza un attimo di riflessione, di intervenire. Abbiamo cercato di renderli ridicoli, come ho fatto con la politica Concetto. Non sono altro che personaggi non furbi, non intelligenti o poco intelligenti, semplicemente ridicoli. E questo era Antonio Albanese al microfono di Boris Sollazzo per raccontarci tutto tutto niente niente. Giochiamo insieme, è arrivato il momento di ascoltare la prima clip del nostro DVD Game di oggi. M'hai detto ti amo, ti dissi aspetta. Stavo per dirti eccomi, tu m'hai detto vattene. uno degli incipit più famosi della storia del cinema. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci di che film si tratta per provare a vincere il DVD di questo film, un'edizione davvero speciale. Ne parleremo ovviamente la prossima settimana raccontando chi avrà vinto, ma più tardi ci saranno altre due possibilità. Oh, è arrivato il momento di parlare dell'Hobbit. Arriva, ritorna Peter Jackson, ritorna la saga del Signore degli Anelli, ritorna quello che è stato il film che ha segnato, forse insieme alla saga di Harry Potter, l'inizio degli anni 2000. È stato sicuramente, anzi diciamo la fine degli anni 90 più che altro, è stato sicuramente un marchio, un brand, quello del Signore degli Anelli, che ha saputo scolpirsi per bene in fondo all'immaginario collettivo. E adesso Peter Jackson, 10 anni dopo, torna con Lo Hobbit, il prequel, ma anche il primo di 3 film di una nuova saga dedicata a questo primo libro di Tolkien, che lo scrisse pensando forse più a letteratura per ragazzi, con quei toni lì, e invece fu un successo clamoroso. Il suo editore volle subito altro materiale, allora ecco perché Il Signore degli Anelli divenne materiale, come dire, più sensibile, più graffiante, più scuro. Anche se un po' di oscurità in questo Hobbit c'è e rimane. Allora andiamo per sommi capi a raccontare un po' la storia di questo primo film, appunto Un viaggio inaspettato, Terra di Mezzo, 60 anni prima delle vicende del Signore degli Anelli. Bilbo Baggins, Martin Freeman sullo schermo, protagonista di questo viaggio alla riconquista di un regno perduto, quello dei nani di Erebor. E i nani sono più di 7 questa volta, e sono anche molto molto ben realizzati e ben recitati. Il drago Smaug, già subito nei primi 5 minuti del film, ha distrutto tutto, si è installato in una montagna d'oro sotto questo regno dei nani, li ha praticamente cacciati, e allora a un certo punto bisogna far ritornare, ci pensa Gandalf ovviamente, a far ritornare i nani a riconquistare il loro territorio. Ci sarà come sempre un enorme viaggio, un'enorme epopea piena di orchi, piena di avventure, ma soprattutto dove va a pescare quello che potrebbe essere il 14° elemento della spedizione, Gandalf, esattamente a casa di Bilbo. I visitatori mi piacciono, come a ogni altro Hobbit. Ma preferisco conoscerli prima che vengano in visita. Il signor Baggins al vostro servizio. Sono circondato da nani. Che ci fanno qui? Oh, sono una combricola alquanto allegra. Dunque, questo è l'Hobbit. Mi avete chiesto di trovare il 14° membro di questa compagnia e io ho scelto il signor Baggins. Io? No, no, no, no. Gli Hobbit passano spesso inosservati se vogliono, il che ci dà un preciso vantaggio. Coglieremo questa occasione per riprenderci Erebor. Yeah! E allora, questo l'inizio. Bilbo non è particolarmente entusiasta dell'idea. Nel corso del suo viaggio incontreranno personaggi davvero davvero straordinari, ma soprattutto arriverà il momento dell'incontro che segna, se vogliamo, poi tutta la saga, e segnerà, avrebbe segnato anche la trilogia del Signore degli Anelli, ovvero quello fra Bilbo e il Gollum, il momento in cui l'anello arriva, diciamo, per la prima volta nelle mani di Bilbo Baggins, e da lì in poi capiamo già che ci sono i prodromi di quello che sarà poi la trilogia successiva. Cosa sei, tesoro? Cosa sei? Il mio nome è Bilbo Baggins. Baggins? Cos'è un Baggins, tesoro? Sono uno Hobbit della Contea. Oh, ci piacciono i goblins, i pipistrelli e i pesci, ma non abbiamo mai provato un Hobbit finora. È morbido, è succulento. Vada, vada, sta a distanza. La userò se necessario. Io non voglio guai, sono stato chiaro. Mostrami solamente come uscire da qui e io me ne andrò via. Perché? Esso si è perso. Sì. Sì, e invece voglio ritrovarmi il prima possibile. Conosciamo sentieri sicuri per gli Hobbit, sentieri sicuri nell'oscurità. Sta zitto! Non ho detto niente. Non parlavamo con te. Cosa dire di questo lavoro? Quando si è di fronte a un film di 3 ore tratto da Tolkien, di Peter Jackson, con tutta la sua banda di sceneggiatori eccetera, ovviamente si potrebbe parlarne per chissà quanto tempo. E poi Il Signore degli Anelli è una cosa che ha sempre creato, diciamo, una spaccatura. C'è chi ha amato alla follia quella saga, c'è chi un po' l'ha detestata, ritenendola noiosa, lunga, prolissa, ridondante. Ora, questo film ha sicuramente una semplicità di fondo, una linearità tonalità di fondo diversa in termini narrativi. È una storia molto chiara, molto semplice da seguire, è un vero inizio, e questo sicuramente la porta anche al livello di spettatori più giovani, anche se non mancano, come dicevo, le ombre, il noir che in qualche modo pervade questa situazione, ma c'è anche molto divertimento, molta comicità, anche piuttosto spicciola, devo dire, in certi momenti. Narrativamente è un film diviso in due parti, seccamente, un'ora quasi insopportabile, di una lunghezza, di una prolissità, di dialoghi tutti all'interno sostanzialmente della casa dell'Hobbit di Bilbo, che fanno abbioccare abbastanza, lungaggini forse anche largamente evitabili, è stata una delle critiche che sono state rivolte a Peter Jackson. Ebbene, dopo questa prima ora ce ne sono però altre due, molto belle, molto fluide, molto divertenti, piene di azione, ed è questo sicuramente lo scatto, cioè da quando l'Hobbit, i nani e Gandalf cominciano ad andare a tentare di riconquistare la terra il regno dei nani, attraversando le terre di mezzo con tutti i loro straordinari personaggi cattivi e buoni, elfi, draghi e orchi, con un personaggio come Radagast, che è la vera invenzione, se vogliamo, anche se c'era ovviamente nel libro, la vera invenzione, perché gli ha dato grande peso Jackson in questo film. Insomma, lì il film diventa un'altra cosa, e qui passiamo anche all'aspetto tecnico, diventa un'altra cosa anche perché è girato in una maniera innovativa. Ecco, tecnicamente questo film è una pietra miliare della storia del cinema. Perché? Perché un po' come accade con Avatar, se vogliamo, al di là di che piaccia o non piaccia il film, accade con Avatar per il 3D, perché qui siamo in 3D, ma siamo con riprese effettuate a 48 frame al secondo, cioè al doppio di quello che è il solito passo del cinema tradizionale. Questo vuol dire che l'occhio umano poi, a parte, si stanca molto meno con gli occhialini in testa, ma percepisce il movimento come se fosse naturale, cioè sembra di essere dentro un documentario, dentro una scena di vita vissuta dell'Hobbit, di Gandalf, dei nani, degli orchi e di tutto quello che è il contesto di questo film. C'è una naturalezza della, qualcuno ha parlato anche di fantasy neorealista, c'è una naturalezza della scena che è davvero sconvolgente, ed è una esperienza in senso stretto, l'alta definizione legata a questi 48 frame. E allora, proprio su questo aspetto così particolare, sentiamo proprio Peter Jackson. We've seen in the 10 years since Lord of the Rings, we've seen the advent of digital technology now. They were not... 10 anni dopo Il Signore degli Anelli abbiamo assistito all'avvento della tecnologia digitale, ma allo stesso tempo abbiamo assistito all'arrivo di iPad, iPhone, e quindi ora c'è un'intera generazione di bambini che pensa che sia inutile andare al cinema a vedere un film quando lo si può fare sul proprio iPad. E credo che questa sia una tragedia. Voglio dire, amo il cinema perché amo l'evento, il mistero, l'eccitazione di andare in un enorme cinema al buio ed essere assorbito dall'avventura sullo schermo. E personalmente sento quasi la responsabilità, essendo un regista, di dover fare la mia parte e invogliare la gente ad andare al cinema a guardare film, guardarli in un cinema, non aspettare che escano in DVD. Ancora insieme alla Rosa Purpurea anticipiamo di fatto un po' quella che è la nostra quarta parte, tradizionalmente legata al mondo dell'home video, e lo sarà anche oggi, ma perché ci voleva spazio per raccontare un paio di iniziative importanti che si stanno muovendo, cominciando proprio dal grande ritorno, l'abbiamo detto anche nei nostri titoli di testa, Ingmar Bergman come non lo avete mai visto. Si potrà ancora oggi nel 2012 pensare a un Bergman da conoscere? Ebbene sì, perché arriva in DVD, è arrivata la prima metà, sta per arrivare alla seconda metà, la collezione definitiva dei capolavori di Ingmar Bergman, realizzata dalla BIM in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Sono 24 uscite per 30 titoli, tra cui alcuni inediti, tutti restaurati e rimasterizzati in alta definizione per la prima volta in Italia, ed ecco il primo Non l'avete mai visto, soprattutto con l'inserimento e il recupero di brani censurati, perché la censura aveva tagliato forte su Bergman all'epoca, e quindi anche questa è un Non l'avete mai visto, e chiaramente la solito corredo di contenuti speciali che ci possono far entrare dentro il lavoro di questo strepitoso, grande, enorme maestro, mantra della storia del cinema, così seminale, così in grado di influenzare, inutile dirlo, insomma, almeno i 40 anni successivi al suo avvento. E allora noi di questa iniziativa iniziativa, di queste uscite in DVD con la BIM, per farvi capire quanto importante è, però quanto sia un evento questo approdo in videoteca, abbiamo due ospiti. Vogliamo subito coinvolgere Valerio De Paulis, e come dire il signor BIM in qualche modo, scherzando potremmo dire Mr. BIM, ma con la M finale. Salve De Paulis, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora, raccontiamo un po' cosa rappresenta un lavoro così, in un mercato come quello dell'home video, che non è che sprizzi sempre gioia da tutti i pori, insomma, è un mercato difficile, si sa, c'è la crisi, c'è la pirateria, ci sono tante cose. Puntare su Bergman, cosa rappresenta per voi? Beh, dunque, puntare su Bergman per noi rappresenta una fedeltà a quello che noi facciamo e quello a cui io credo da tanti anni, che è il cinema d'autore. Sento da alcune parti che la cinefilia è considerata una cosa così perniciosa, invece io sono contrario, penso che la cinefilia è una delle cose che aiuta a vivere, perlomeno me, e quindi come me spero a tante altre persone. Quindi non mi preoccupo troppo del risultato economico finale, mi preoccupo di mettere sul mercato dei film meravigliosi che, se qualcuno ha voglia di vedere, li può vedere, come dicevi tu prima, rimasterizzati in una edizione molto più bella e più contemporanea, e quindi questo è un po' il senso di quello che faccio io. Io non mi preoccupo troppo di fare delle operazioni così solo economiche, se no aprirei dei negozi di occhiali da sole dove si guadagna un sacco di soldi. Io penso che Bergman è un antesignano, è un innovatore, voglio dire, negli anni quando faceva i film, è un grandissimo maestro, è uno di quelli che ha scandagliato l'animo umano, forse come Freud, e quindi ritengo che, siccome l'animo umano non cambia nei decenni, rimane, le pulsioni sono sempre le stesse, c'è sempre una buona ragione per vedere questi film, soprattutto se oggi come oggi sono rimasterizzati, sono rimodernizzati, sono quasi più attuali. La fotografia è straordinaria, le luci del nord sono bellissime, e c'è questa curiosità di vedere come la censura, più che tagliato, ha reinterpretato delle situazioni, dei dialoghi, degli stati d'animo, li ha praticamente liberati da tutta una, cioè li ha resi di una banalità terribile. Abbiamo cercato di ridare questa verità su quello che Bergman ci raccontava, e niente, io sono felice di questo. Roberto Chiesi, com'è stato il lavoro della Cineteca di Bologna su questi film? Cineteca di Bologna, lo ricordiamo, uno dei capisaldi a livello mondiale del restauro di film. Bergman restaurato, Bergman con il reinserimento dei tagli censurati, come cambia cinematograficamente? Ma il nostro lavoro ha consistito proprio nel cercare di reintegrare quelle che erano state le sequenze tagliate. Adesso sequenze tagliate saranno reintegrate soprattutto nel secondo gruppo, cioè nelle seconde uscite di film di Bergman come La Fontana della Vergine e Il Silenzio. Per quanto riguarda questo primo gruppo invece, che è uscito adesso, si è trattato di lavorare su, come diceva De Paulis prima, sui dialoghi, sulla traduzione dei dialoghi, perché a suo tempo la censura italiana operò proprio degli arbitri spaventosi, normalizzando Bergman, cioè volevano eliminare tutti gli elementi di critica alla religione, di critica ecclesiastica, di ironia e anche la dimensione carnale proprio, quindi qualunque frase, qualunque parola potesse avere appunto una dimensione provocatoria veniva normalizzata, veniva banalizzata. E noi, grazie ad alcune trascrizioni fedeli dallo svedese, abbiamo appunto provveduto a ridare le parole ai film di Bergman che avevano in originale. Quindi ecco, per esempio, Il posto delle fragole ha alcuni passaggi che erano stati adulterati, che erano stati manipolati e che adesso invece si potranno sentire, cioè si potranno leggere nei sottotitoli, così come Bergman li voleva. E allora ricordiamo i titoli di questa straordinaria collana, già in libreria, tra l'altro in videoteca ma anche in libreria: Fanny Alexander, Monica e il desiderio, ne dico alcuni ovviamente non tutti, Sorrisi di una notte d'estate, Il posto delle fragole, ma arriveranno per fine dicembre anche l'imperdibile Settimo sigillo, ancora La fontana della Vergine, eccetera eccetera. Insomma, davvero straordinario Bergman, in una dimensione come non l'avete mai vista, e vedete che era proprio così. Grazie a Valerio De Paulis della BIM e a Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna, e adesso DVD Game. E allora giochiamo ancora insieme, abbiamo la seconda traccia del film misterioso di oggi. Catherine, Jules. Buongiorno. Buongiorno, ho firmato il contratto con l'editore. Ah. Ecco, questo è per Catherine. Grazie. Questo è per tutte e due. Bello. Fantastico. E c'è ancora un'altra scatola. Che cos'è questo? Una manina per grattarsi dietro. Beh, qui c'è già qualcosa più di un indizio. Di che film si tratta? La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it, cinefilia per cinefilia. Anche il nostro game si è un po' adattato questa settimana. Diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro nome, cognome e indirizzo, provate a vincere il DVD di questo film. Settimana prossima la soluzione, più tardi invece l'ultima traccia. E allora, dicevamo, due grandi iniziative, un video che ci hanno convinto a far salire, a dedicare questa terza parte della trasmissione a queste due iniziative. La prima era quella su Bergman, di cui abbiamo parlato. Adesso invece vogliamo parlare di un'altra cineteca, quella di Milano, sempre molto molto attiva, che fa partire una collana di DVD dedicata ad alcuni veri e propri tesori nascosti. Come accade nei musei, sapete, si sente spesso dire chissà cosa c'è, anzi sappiamo cosa c'è, purtroppo non si può vedere, nei sotterranei del Louvre, piuttosto che del Prado, piuttosto che della Pinacoteca di Brera. Opere, capolavori che in qualche modo rimangono un po' lì. È quello che è accaduto cinematograficamente parlando anche alla Cineteca di Milano, che si è trasferita da qualche tempo ormai nella nuova grande sede della ex manifattura tabacchi alla periferia nord, e che adesso tira fuori proprio dal suo baule questi capolavori di autori italiani. Sono cortometraggi, sono prime opere, sono cose che si sono viste poco o mai, e si comincia con Franco Piavoli, un grande poeta del cinema, con una vera e propria collana intitolata appunto I tesori del MIC. E allora ne parliamo con Matteo Pavesi. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti. Allora, raccontiamo un po' questo tesoro che si è aperto davanti ai vostri occhi. Come avete voluto scegliere questi materiali e che tipo di vita avranno e di reperibilità, di fruibilità avranno per gli ascoltatori? Beh, innanzitutto abbiamo scelto questo materiale per la grande stima e affetto che portiamo per Franco Piavoli, che riteniamo davvero un grande del nostro cinema e del nostro cinema di ricerca. Questi materiali con tutti gli altri film di Piavoli sono depositati presso il nostro archivio, però questi in particolare sono 8 mm, quindi un formato oggi improiettabile. Quindi l'idea è stata quella di restaurare filologicamente questi materiali, rispettandone proprio il formato, non intervenendo in modo massiccio anche i graffi e le difficoltà che questi 16 mm si sono portati dietro per oltre 50 anni, e portarli in DVD. Adesso stiamo lavorando, ad esempio, su una serie di Fusako Yusaki, bellissima per bambini, distribuita in Giappone, distribuita in Francia, in altri paesi, ma mai arrivata in Italia, e questo sarà il prossimo capitolo. Quindi anche materiali che insomma ci riguardano, perché il lavoro di Fusako Yusaki è un'altra tipologia di lavoro che ci riguarda, e che riguarda in particolare il MIC, che è rivolto soprattutto alle famiglie e ai bambini. E sono materiali che, come dire, noi italiani non abbiamo mai potuto vedere, ecco, per cui questa sarà la prossima tappa. Poi c'è tutto il mondo legato al cinema restaurato, ai muti. Per cui insomma, da lavorare per i prossimi anni ce n'è molto. Assolutamente. Fusako Yusaki, ricordiamo, la maga della plastilina, insomma, la grande, esatto, capacità di fare animazione, Hardman prelittera, amante littera, ma anzi anche con un'artisticità, se vogliamo, ricercata e molto molto raffinata. Grazie Matteo, e in bocca al lupo per questa collana I tesori del MIC. Grazie. grazie a tutti e buona giornata. Eccoci ancora alla Rosa Purpurea, siamo alla rush finale e abbiamo parlato tanto di un video particolare, diciamo così, fino a questo momento, e adesso invece ci buttiamo in nelle videoteche a vedere che cosa c'è, ma prima di tutto facciamo vedere quello che c'è in televisione e quindi andiamo a sfrugugliare i palinsesti della prossima settimana. Lo facciamo con Giulio San Giorgio, con gli amici del settimanale Film TV, e cominciamo, Giulio, con un film tutto da riscoprire, con un grande Walter Matthau, Chi ucciderà Charlie Varrick? Esattamente, si avvicina il Natale, ma noi proponiamo due film tutt'altro che buonisti. Lunedì 17 alle 23:15 su Removie ucciderà Charlie Varrick. C'è un vecchio film che si intitolava Rubare alla mafia è un suicidio, ma il protagonista di questo film di Don Siegel veramente non ascolta questo comandamento e dopo una rapina si trova preda di una caccia all'uomo dalla parte della mala e della polizia. Siegel gira un thriller tesissimo con un equilibrio perfetto tra il fervore drammatico e le distensioni ironiche, e che è un omaggio all'acume e alla sapienza di un protagonista che mette sotto scacco l'ottusità che lo circonda, e questo protagonista, come dicevi tu, è un grandissimo Walter Matthau. E allora ricordiamo l'appuntamento con Chi ucciderà Charlie Varrick lunedì 17 dicembre alle 23:15 su Rai Movie. Andiamo ancora un passo indietro nel tempo, 1956, Fritz Lang firma Quando la città dorme. Mercoledì 18 a 00:55 su Rai Movie, Quando la città dorme. Morto un direttore di un famosissimo quotidiano, se ne deve fare un altro, la domanda è: ma chi? Il figlio degenerato del defunto organizza una sorta di gara tra giornalisti e la carica andrà a chi scoprirà l'assassino di una giovane donna. È il penultimo film americano di Lang, un genio dell'espressionismo tedesco, del noir americano poi, ed è un giallo che, come sempre nel suo cinema, un'indagine sulla natura dell'uomo, oltre che sulle dinamiche distorte del giornalismo, ed è pregno di un pessimismo che lo trasforma in un affresco urbano infernale dove il bene è stato assolutamente estirpato. Un film veramente bellissimo. Allora, ricordiamo ancora l'appuntamento, Quando la città dorme di Fritz Lang, martedì 18 dicembre alle 00:55 su Rai Movie. Grazie Giulio e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima. Ed è arrivato anche il momento della terza e conclusiva traccia del nostro game di oggi. Jim, ho paura che ci lasci. Non è possibile. No, l'ha già fatto. Per 6 mesi credevo che non sarebbe tornata più. La sento di nuovo pronta a partire. Lo sa, Jim, che non è più veramente mia moglie. La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo per provare a vincere il DVD di questo film per il più veloce fra quelli che indovineranno, fra i nostri ascoltatori, il sabato e la domenica. 7 giorni fa avevamo giocato con questa clip. E poi, dal nulla, l'orso più grande che si sia mai visto. Il suo manto portava i segni delle armi di guerrieri caduti, il volto sfregiato e privo di un occhio. Sguainai la spada e... con una zampata l'orso la frantumo. E allora, si trattava di Brave Ribelle, il film Disney che all'inizio della stagione era stato un po' il ritorno in sala di un lavoro appunto in computer animation Disney. Vito Miraglia di Matera, Ciro Masinelli di Bologna sono i nostri due ascoltatori che hanno vinto la edizione in Blu-ray di Brave, di cui ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, da Disney Home Video c'è l'offerta singolo DVD oppure Blu-ray alta definizione, mentre per coloro che hanno già il sistema stereoscopico casalingo, l'edizione con in più un secondo disco compatibile solo 3D e comunque qualità d'immagine da riferimento, veramente eccellente anche il comparto audio con 2 tracce Dolby Digital 8 canali ad alta risoluzione italiana e inglese e quest'ultima di resa superiore. Sono tantissimi gli extra, sono tanti approfondimenti sulla lavorazione, il commento audio dei membri dello staff, 8 dietro le quinte, 4 scene estese, ci sono 2 cortometraggi tra cui il bellissimo La Luna di Enrico Casarosa e ricordo che è inclusa la copia digitale. Questo è The Brave, il nostro game della scorsa settimana. Andiamo a vedere cosa c'è di nuovo invece in videoteca, cominciando da un film che è davvero da riscoprire, ha avuto un passaggio abbastanza fugace in sala ma merita molto, questo Detachment di Tony Kay. Io la conosco la tua rabbia, mi sono sentito come ti senti tu, ok? So cos'è, ma non hai motivo di essere arrabbiato con me, perché sono una delle poche persone che sta cercando di offrirti un'opportunità. Perciò ora ti chiedo di andare a sederti e fare del tuo meglio. Harry è un professore precario di letteratura che si ritrova a lavorare presso un istituto pubblico in una classe penalizzata dalla presenza di soggetti violenti e disturbati, sofferente per una tragedia familiare che l'ha segnato da adolescente, una vita solitaria in compagnia di fantasmi del passato. L'insegnante farà di tutto per aiutare non solo i difficili alunni grazie alla refrattarietà e al coinvolgimento emotivo. Dal regista del grandissimo American History X, un altro intenso quadro di emozioni sul male di vivere, la precarietà dell'esistenza, letta questa volta attraverso il fallimento della scuola pubblica americana. L'Officine Ubu e l'edizione DVD, ma anche Blu-ray, quest'ultimo che consigliamo, di qualità sopra la media. In qualche momento c'è un'inferiore solidità sui fondali, ma sicuramente di ottima qualità. DTS ad alta risoluzione italiano-inglese, anche qui notevole. Come extra segnalo interviste agli attori Adrian Brody e Sam Gale, oltre a una fotogalle. E allora l'ultimo consiglio, in realtà sono tre consigli, perché sono contenuti insieme in un cofanetto, in un bellissimo cofanetto Blu-ray, alcuni dei capolavori di Alfred Hitchcock. Noi sentiamo la clip di Delitto Perfetto. Perché sai che accetterò? Per lo stesso motivo per cui un asino con un bastone dietro e una carota davanti va sempre avanti e non indietro. Parlami della carota. 1.000 sterline in contanti. Per un omicidio. Pochi minuti di lavoro, è tutto qui. Senza rischi, lo garantisco. Questo dovrebbe allettarti. Ne hai corsi altri ultimamente. Non capisco cosa vuoi dire. Eppure è chiaro. C'era su tutti i giornali. Una donna trovata morta per un'eccessiva dose di non so che. Sembra ne facesse uso da tempo, ma nessuno sapeva dove la trovava. Da Warner Home Video, un prestigioso cofanetto che, oltre a Delitto Perfetto, contiene Delitto per Delitto e Intrigo Internazionale. Restaurate, sono finalmente visionabili nel loro pieno fulgore, a colori o in bianco e nero, con una qualità d'immagine senza precedenti. Tra l'altro notevole l'offerta per Delitto Perfetto, che è visionabile anche in 3D. In misura sicuramente superiore tecnicamente rispetto al 54, quando il film era offerto nelle sale anche in versione stereoscopica. L'audio è monofonico in italiano, accettabile. Segnalo che Delitto Perfetto ha qualche battuta incompleta in italiano, traccia originale in inglese, DTS ad alta risoluzione, sempre mono, è migliore. Sono tanti extra per approfondire la realizzazione delle opere, in particolare Intrigo Internazionale ha il commento dello sceneggiatore, la colonna sonora isolata e un documentario sulla carriera di Cary Grant. Ricordo che i tre film sono venduti anche separatamente. E allora grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto, a presto. E allora le nostre note della sigla ci dicono che stiamo chiudendo, ci resta il tempo di ricordarvi la pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, unitevi alla nostra famigliona qua di cinefili, con i nostri consigli durante la settimana, con il programma da poter scaricare dal lunedì in poi, con i temi in anticipo e con la possibilità di dire quello che volete sui film che avete visto. Io ringrazio Giorgio De Luca che ci ha seguito in redazione, Filippo Aureggi in regia, un saluto da Franco D'Assisi.